fosse notte dentro qui da me. E lo sai che presto passerà, ma comunque adesso mi do a te. Tu conosci molto bene i miei stati d'animo, li conosci forse anche meglio di me. E lo sai che adesso è buio, ma comunque tu puoi ancora prendere da me. Ed è fantastico così, che tu continui a dare a me. Perché tanto tu lo sai che sono